Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Allora, ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo raccontato in diretta, la Croazia che ha vinto la prima partita di questa domenica dell'Europeo 1-0, gol di Modric e dormita del portiere, che è una delle caratteristiche di questo inizio di Europeo, in questo inizio di terza giornata, dopo aver visto ieri la prima dell'Inghilterra, la vergogna degli hooligans che adesso l'UEFA vuole punire cacciando via Inghilterra e Russia. Aspettando domani di vedere il debutto dell'Italia di Conte contro il Belgio. 800 24 00 24, telefoni aperti in diretta fino alle 19. Oggi abbiamo invitato qui in studio per parlare di calcio una giornalista di Sky, molto brava, molto competente, che voglio salutare. Sono assolutamente d'accordo. Sì, buongiorno a tutti, perché questa è veramente mia tra le giornaliste preferite. Ilaria, sì. D'Amico. Non è Ilaria D'Amico. È una donna che sa di calcio. Ilaria D'Amico sa di calcio, ma anche la nostra ospite di questo pomeriggio sa molto di calcio. Non è Claudia Schiattone, è una giornalista di Sky. Claudia Schiattone, autrice del nostro programma. Filippo Aureggi in regia. Lo dici tu, Sinisa, chi è? No, lo dico io. È Marina Presello. Marina Presello, ciao Marina. Buonasera a tutti, buonasera Sinisa. Sì. Marina, ma non c'è problema, scambiata per Ilaria D'Amico, perché sì. Gnocca anche lei, sì, però... No. Ah, tu sei Marina Presello, tu però non dovresti parlare di calcio. Ma non è vero, l'abbiamo portata apposta. Sono d'accordo con lei. Tu sei, non sei adatta di parlare di calcio, come tutte le donne, tranne Ilaria D'Amico. Donna deve stare in cucina, deve stirare camicia, lavare per terra, noi abbiamo parlato qui Marina Presello, che è una collega di Sky, per farvi da mangiare, no? Perché avevamo le camicie da stirare, quindi abbiamo detto come possiamo fare oggi la regia. No, l'abbiamo portata qui perché invece è molto competente di calcio, ci aiuterà a fare due chiacchiere su questo inizio. Sì, di, ma anche di lei europeo. Non ha bacchetta magica, sì, di Jerry Putin. No, però sa che cosa dice e quindi... Volevo vedere... Mi piace questa fiducia, voi siete così sicuri. No, ma noi è una battaglia che portiamo avanti da settimane, abbiamo il nostro Sinisa che, come sai... Io sono qua che aspetto, dopo che sono diventato l'allenatore di Torino, voi non avete chiamato niente. Ad agosto ti chiamiamo e facciamo. Sono qua che aspetto da mesi, settimane. Sì. Voi non avete fatto assolutamente niente. Poi voglio vedere se Marina Presello è preparata. Prova a chiedergli qualcosa e vediamo se è preparata. Allora, vediamo se Presello è preparata. Attenzione. Vediamo se stappiamo bottiglie di champagne, buon prosecco o semplice gassosa. Sempre questa cosa della gassosa. Perché a te non piace semplice gassosa? Buonissima. È buona. Allora, vedremo se... Allora, vediamo se Marina Presello è giornalista preparata. Allora... Quanti minuti deve cuocere in forno guanciale di maiale? Ma non si fa così. Ma secondo così. Me sui 3 minuti e mezzo. Non si fa così. Qua ed è importantissimo saperlo per il mio lavoro. Fagli una domanda di calcio. Capuano, lasci stare. Come prepari torta della nonna? Non è così. Senta, allora, no, va bene, adesso facciamo domanda seria. Una domanda seria. A quanti gradi si lava biancheria intima delicata? Non è così, Sinisa, delicata. Non è così. Marina Presello è qui per parlare con noi e con i nostri amici a casa. 800 24 00 24. Ovviamente si conoscono, Marina Presello e il nostro Sinisa Mihajlovic, che è Andro Mercù. Però parliamo anche di cose serie, ce l'abbiamo qui fino alle 19. Io sono venuto qua per parlare di cose serie, di Torino, di cose importanti. Parliamo anche del Torino, se vuoi. Partiamo da quello che è successo ieri, perché oggi c'è questo sviluppo degli ultimi minuti. Allora, insomma, partiamo dalla vergogna che oggi è sulle prime pagine di tutta Europa. Environ 16 heures. Anglais, Français et Russes se battent à coups de poing et de bouteilles en verre. Malgré les gaz lacrymogènes, impossible pour les CRS de disperser la foule déchaînée. Au moins 30 supporters ont été blessés. Un homme est toujours entre la vie et la mort. A long night in Marseille. Police disperse football fans in the southern French port after Russia and England end in a tie. Outside the stadium after the match, fans walk calmly away. but incidents took place during the game itself after Russia drew 1-1. In primo piano la Francia, non per il terrorismo ma per gli attacchi dei tifosi ultra. Quella di ieri intorno agli europei di calcio è stata una giornata di follia per la violenza di centinaia di tifosi, protagonisti di vere e proprie guerriglie urbane a Marsiglia, Nizza, Lione, sotto accusa gli ultra russi, inglesi e francesi. Questo racconto audio di quello che è successo ieri, lo sviluppo degli ultimi minuti ve lo abbiamo dato prima nel GR. La UEFA, questo monito, Inghilterra e Russia, altri scontri dei vostri tifosi e siete fuori. Andrea Sorrentino di Repubblica, ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io dico la mia, Andrea ieri era a Marsiglia e ha raccontato in tempo reale le due giornate vergognose, quello che, in cui abbiamo dovuto assistere ieri da Marsiglia. Dico la mia, e cioè questa presa di posizione dell'UEFA, secondo me non cancella alcune responsabilità che ci sono, perché le cose che sono successe ieri in un certo modo erano, se non prevedibili, di sicuro si potevano in qualche modo evitare. Io non so, Andrea, come la pensi tu, poi Marina Presello, poi 800240024, anche gli amici da casa. Andrea? C'erano moltissime cose da evitare. Io, guarda, ho avuto il privilegio, diciamo così, di essere a Marsiglia da giovedì. Ho seguito gli incidenti di giovedì notte, quelli di venerdì notte, quelli di ieri pomeriggio. Di sicuro c'è che questa partita non doveva essere organizzata a Marsiglia per tantissimi motivi. Perché c'erano inglesi e russi, perché c'erano i marsigliesi, perché c'erano dei precedenti. Di sicuro non la si poteva assolutamente far giocare alle 21, ma semmai alle 3 del pomeriggio, così la giornata si accorciava e c'era meno pericolo, eventualmente meno situazioni in cui si potevano verificare incidenti. La terza cosa, ancora più vergognosa di tutte, io ho assistito personalmente alla vendita indiscriminata totale di ettolitri, decine di migliaia di litri di birra dal mattino presto fino a sera, senza alcuna restrizione, senza alcuna proibizione, e questa è una cosa che non può accadere, al punto che a me sono venuti anche dei dubbi, perché è come se qualcuno avesse voluto che accadessero determinate cose, perché si è fatto di tutto per farle accadere. Noi spesso ci facciamo dei problemi, chi frequenta gli stadi italiani lo sa, ci facciamo problemi con zone di prefiltraggi, con misure di sicurezza legittime ma a volte che paiono esagerate, poi si va in una manifestazione che proprio per la sicurezza è preparata, si spera, Giovanni, al massimo livello, e entra un razzo allo stadio, vediamo quello che abbiamo visto fuori. Andrea, Giovanni, io pochi minuti fa sono entrato nella sala stampa dello stadio di Tolosa, che mi trovo qui oggi per la vigilia della Spagna. A un collega davanti a me, al metal detector, è stata tolta una bottiglia di birra che aveva nello zaino. Sì, questi sono i paradossi dell'eccesso, capisci, di sicurezza. Capisci. A volte è tutto molto, molto strano. In tutto questo siamo europei in un paese in ginocchio per tantissimi motivi interni. Sappiamo ci sono proteste, manifestazioni, ci sono agitazioni, moltissimi treni sono stati cancellati e verranno cancellati. Insomma, è un paese nel caos che ospita l'europeo più folto di sempre, perché ci sono 24 squadre, 23 paesi che arrivano qui in Francia con i loro tifosi. Insomma, è un paese impreparato di suo, e in più ci sono le responsabilità di chi deve decidere le misure di sicurezza. Ovviamente l'annuncio dell'UEFA oggi è molto tardivo, ma se non altro speriamo che sia un deterrente. Secondo me, idiozia galoppante, che vabbè, è generica per quanto riguarda questi tifosi, ed è chiaro dirlo. Però la cosa che secondo me è ancora peggio è che ci sono delle tifoserie organizzate, perché i tifosi del Nizza che vanno e organizzano un raid contro quelli di Polonia e Irlanda che stanno tranquillamente bevendo insieme o festeggiando dopo la partita, qui c'è qualcosa di peggio. Cioè ci sono tifoserie che si muovono appositamente per fare dei raid, oltre la vendita degli alcolici, che hanno detto non si può limitare la libertà di una città per il commercio, per il turismo, sì, eccetera, come eccetera. Se in Francia in questo periodo tutti i diritti fossero garantiti dal punto di vista della libertà di movimento, ma giustamente, visto quello che è successo negli ultimi mesi. Andrea, io ti chiedo un minuto di pazienza. Abbiamo il traffico, ci fermiamo. Io ripeto, mi sembra, oltre che tardiva, un po' ipocrita questa presa di posizione dell'UEFA che minaccia Inghilterra e Russia, altri scontri e siete fuori, che è giusto per quello che abbiamo visto in questi due giorni, ma ripeto, ci sono delle responsabilità evidenti in chi non ha prevenuto tutti questi episodi e chi ha fatto in modo, ad esempio, che quel girone con quelle partite andasse a Marsiglia, che è una città un po' particolare, Marsiglia dove ci sarà anche Ucraina-Polonia, che è un'altra delle cinque gare ad altissimo rischio di questa prima fase. C'è il traffico, 800 24 00 24, poi torniamo. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma intanto sono fatti vergognosi, perché mettere in difficoltà una città, credo che tutto dipenda però dall'utilizzo dell'alcol. Gente che è andata fuori di testa perché non erano normali, è un bevuto. La vendita dell'alcol bisogna ridurla, secondo me, però in una città come Marsiglia è quasi impossibile il discorso di ridurre la vendita. Quanti sono aspettano solo questo momento per fare dei modesti guadagni. Però i francesi sono all'altezza di difendere la legalità del torneo. Questo era il presidente D'Avecchio sui fatti di Marsiglia. Io sono d'accordo a metà con il presidente Andrea. Insomma, i francesi non sono completamente all'altezza, o forse, come oggi scrivono in tanti, scrive anche Repubblica, hanno un po' sottovalutato l'aspetto hooligans, concentrati sulle questioni del terrorismo, della sicurezza nazionale, dell'ISIS e di tutto quello che è successo in questi mesi e che è anche stato preparato. Andrea? Sicuramente si saranno anche concentrati di più sul terrorismo, e questo è chiaro perché sapevamo di tutti gli allarmi, però neanche tanto, mi viene da dire, Giovanni, perché se ieri allo stadio del Velodrome i tifosi russi hanno lanciato dei razzi, vuol dire che anche i controlli di quel tipo all'ingresso allo stadio non sono perfetti, e quindi anche in ottica di antiterrorismo non funziona nulla, perché allora uno poteva anche portare una bomba, come ha portato un razzo, poteva anche portare cose ancora più pericolose. Quindi a me sembra che l'aspetto della sicurezza qui sia molto, molto, molto stato trascurato. Ecco, e quindi la cosa ci fa venire dei brutti pensieri per il proseguo del torneo. Speriamo che diano una stretta ulteriore, però ripeto, questo è un paese che è già in grandi difficoltà al suo interno per tutta una serie di scioperi, di manifestazioni che vanno avanti da mesi per motivi legati al mondo del lavoro. Quindi è probabile che loro non ce la facciano, non abbiano forze sufficienti. Sì, io non so come la pensate voi, ma io trovo tutto questo incredibile. Cioè, sì. Grandi manifestazioni si organizzano ovunque, ovunque sono anche il momento, ad esempio, per contro manifestazioni sindacali. Abbiamo vissuto 2 anni fa la lunga vigilia del Mondiale in Brasile, dove c'erano tensioni sociali che erano devastanti, anche più rispetto a quelle che oggi a livello sociale possono attraversare la Francia. Eppure il Brasile ha organizzato il Mondiale, correggimi Andrea se sbaglio, in piena sicurezza. Io trovo incredibile che al terzo giorno dell'Europeo noi scopriamo di essere nudi. Sì. E ne dico un altro. E coi razzi. Magari, e coi razzi. Magari c'è anche una UEFA molto più debole, molto più disattenta, perché c'è un vuoto di potere da mesi. Pensa a Michel Platini con tutte le cose che sono successe. Magari però anche in termini di sicurezza, no? Dicevamo, come fa a entrare un razzo allo stadio? Cioè, adesso no, in Italia non succede, nel senso che comunque tutti, da noi giornalisti all'ultimo dei tifosi, vengono, come dicevi tu, controllato, metal detector, prefiltraggio, secondo filtraggio. Un tifoso che oggi è riuscito a entrare in campo, ha fatto invasione di campo. Gli steward dove erano? Cosa guardavano? Cosa facevano? Perché comunque il tifoso è entrato lì, poi l'hanno fermato, ma se questo tifoso aveva qualsiasi piccola arma con sé o solamente tirava un pugno, faceva male qualcuno, già è grave così, avrebbe fatto ancora peggio. Quindi evidentemente qualche falla in Francia, grossa falla c'è. No, il tema è questo, senz'altro. E infatti è molto inquietante, perché siamo soltanto all'inizio dell'Europeo, quindi speriamo che non accadano altre cose. Voi siete così al calduccio a Milano, fate meglio di noi che siamo qua. Mettiamola così, va? Sicuramente, su questo non c'è dubbio. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Sorrentino di Repubblica. 800 24 00 24, c'è un amico che scrive, potete anche scrivere via SMS, via WhatsApp, 349-238-6666. Il divieto di vendita degli alcolici avrebbe aiutato, ma chi premedita queste guerre se ne frega dei divieti, vero? Però se lo fanno in tutta Europa, se lo fanno in tutto il mondo, si può anche fare a Marsiglia, si può anche fare nelle città francesi prima di queste partite, di questo campionato europeo, se direi si fa ovunque. Esatto, si fa ovunque, vista la pericolosità, visto le che sono partite a rischio. Si può pensare, no, che può succedere qualcosa del genere. Certo, come dicevamo prima, l'imponderabile, ovvero questi tifosi che partono per dei ride di violenza e vengono, si preparano senza alcol ma solamente con la voglia di andarli proprio a picchiare, quello ok, imponderabile. Però se tu dai in mano a questa gente la bottiglia di birra. Io ho visto delle immagini inquietanti di alcune donne che tiravano la bottiglia di birra, delle ragazze. È una cosa che secondo me, stando la sinistra, sarebbe d'accordo, non sta in cielo né in terra. Io dico sempre che non sono adatte a questo scopo, bisogna stare molto attenti. No, ma lanciare le bottiglie di birra mai. Sinistra, neanche gli uomini. Beh, diciamo, uomini. Se si tratta di champagne o buon prosecco o bottiglia di gassosa, come si sapevi tu che volevo dire questo? Ma perché è qualche mese che andiamo avanti in questa storia? Fulvio da Verona, Fulvio. Sì, buonasera. Eccoci, buonasera. Ecco, volevo dire che sono rimasto anch'io allibito davanti alla notizia della decisione UEFA di eventualmente sospendere Inghilterra e Russia, perché non capisco cosa c'entrano le due nazioni. Le due nazionali. Se fosse stato qualche dirigente, qualche allenatore, giocatore che si era abbandonato a gesti inconsulti che aveva spinto alla violenza, capisco, ma non mi risulta che sia accaduto. Piuttosto, quello che vorrei dire è che l'opinione pubblica e i giornalisti e tutti coloro che stanno dietro a questo mondo del calcio, che mi sembra che sia stato decisamente malato, dovrebbero stigmatizzare i comportamenti di certi giocatori di calcio quando si verificano. Io vado allo stadio, sono di Verona, vado a vedere indifferentemente tanto il Chievo quanto il Verona. Ah. Uno per motivi storici e uno per motivi sportivi. Non so dire quale. Sì, vabbè, è abbastanza intuitivo. Però, vabbè, però io andavo anche negli anni 60, ho 63 anni, negli anni 60 andavo allo stadio, in Serie B, in Serie A, io non ho mai visto, guardavo la televisione. Sì, però non c'entrano nulla i giocatori, hai ragione in quello che abbiamo visto a Marsiglia ieri e l'altro ieri. C'è qualcosa di evidentemente premeditato, ma il punto non è nemmeno quello. Cioè, io capisco che la responsabilità oggettiva sia un concetto scomodo e forse anche ingiusto spesso, ma se il prezzo da pagare per avere certe nazionali, e non è soltanto l'Inghilterra o la Russia, abbiamo avuto il problema della Serbia, abbiamo avuto il problema della Croazia per tanti anni, per lotte interne, intestine, politiche, etniche. Se il prezzo da pagare è portarsi in giro questo tipo di problemi, si può anche farne a meno per un periodo transitorio. Oppure no, 800240024, io non so come la pensi tu, Marina. No, è chiaro che, come dici tu, la responsabilità oggettiva spesso poi ai tifosi che non c'entrano niente, alla nazionale che non c'entra niente, ai giocatori, all'allenatore, tutto staff, è chiaramente qualcosa di ingiusto visto dalla loro parte, però portarsi in giro, come dicevi poco fa, queste tifoserie, hai citato quella serba, hai citato quella croata, il signore ha chiamato da Verona, dove la tifoseria dell'Hellas è una tifoseria abbastanza... Sì, ma adesso non buttiamo su tifoseria serba, tifoseria, questo non va però bene. Però effettivamente se poi i risultati sono questi e non ci sono altri modi per limitare questo tipo di violenza, bisogna andare... pesante, perché non ci sono alternative. Sono pur riusciti in Inghilterra in qualche modo a limitare il fenomeno Ulmo, ma l'hanno fatto così, togliendo semplicemente dagli stadi questa gente. Esatto. Dario Ricci, andiamo in Francia dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Eccoci qua. Dove ti trovi? Ben trovati. Sono proprio di fronte allo stadio di Lione, fresco di accreditamento. Sai Giovanni, sapete bene quanto siano penose queste operazioni e complesse, queste piccole operazioni burocratiche che però sono anche hanno anche il biglietto d'accesso di fatto a Euro 2016. Quindi, com'è il clima a Lione? Si sta vivendo una vigilia normale, immagino, spero, anche se in realtà Belgio Italia è cosiddetto livello 2 di allerta, 2 su 4, non è tra le partite più a rischio, ma è comunque una partita segnalata. Direi che finora il clima molto corretto, positivo, si sono viste già qualche roulotte di tifosi belgi belli carichi, ma insomma in senso positivo, di tifo, trombette, bandiere. Ieri comunque anche qua a Lione c'è stata una rissa da bar, sembra poca cosa, comunque tra qualche ultra inglese che si era spinto fino a qua e qualche francese, e quindi qualche ferito c'è stato, se non sbaglio 4, quindi insomma... diciamo sono le propaggini di quello che è avvenuto a Nizza e a Marsiglia, però il clima sembra assolutamente positivo, tanti tifosi già qua intorno a vedere gli stand che poi domani saranno chiaramente aperti, quindi direi finora con tutte le cautele del caso, Giovanni, un'atmosfera positiva intorno a questo nostro esordio. Mi dai in un minuto il bollettino invece della nazionale, che credo stia per partire la volta di Lione? Sì, poi voglio fare io domanda a Dario Ricci, per favore. Sì, prima il bollettino della nazionale, finito, sì. Prima il bollettino, la partenza alle 18.10 da Montpellier, il volo brevissimo, meno di un'ora per arrivare qui a Lione. Beh, diciamo eravamo partiti incendiari, dovremmo finire pompieri a livello di formazione, perché ormai è noto, sembra che Antonio Conte privilegerà di fatto la formazione tipo che ha in mente, con Eder come compagno d'attacco di Pellè, Darmian come laterale sinistro piuttosto che il più offensivo del Sharawi, con Candreva a destra, centrocampo Parolo sembra aver al momento la meglio su quel Florenzi che in virtù della bellissima notizia che gli è arrivata in settimana, cioè il fiocco rosa, la nascita della sua Penelope, ha perso però un paio di appuntamenti, cosa che per Conte è una colpa mortale. Infatti non si fa, devo dire, se mi è concesso dirla mia, io faccio fatica in questa squadra a rinunciare a Florenzi, però quelle sono giustamente scelte del mister, a partire da questi criteri che giustamente ricordavi, ecco. Va bene, quindi queste sono le indicazioni di oggi, giornata di vigilia, poi questa sera a partire dalle 19:30 ci sarà conferenza stampa di Conte, ci sarà l'allenamento che nella serata vi racconteremo. Dario, resta lì perché adesso abbiamo... No, io devo assolutamente dire una cosa. Mi hanno segnalato da fonti che io so sicuramente che queste fonti sono giuste. Mi hanno segnalato un giornalista aggressivo, molto aggressivo, che gira con bastone contundente in giro. Gira con le stampelle. E mi hanno detto che è molto pericoloso, che si comporta in maniera molto aggressiva. E che sta andando davanti a Conte, dice deve giocare Florenzi, deve giocare Florenzi. Saprà Conte chi cazzo deve giocare. No, non si può dire. Non si può dire Florenzi. Ci sono i figli della Brasello all'ascolto e non si ricorda. Mia figlia che ascolta, dopo cosa dice? Vabbè, ma allora cazzo ditelo. Aspettate lì, dobbiamo tornare perché c'è la pausa pubblicitaria. Poi però ripartiamo da Lione, arriva anche più Luigi Pardo. Ahia. Non è stato sanzionato, altro bombone abbastanza inquietante. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Eccoci qui, Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Bene, bene, tutto bene. Abbiamo qui Marina Presello. Dottoressa Presello. Dottor Pardo. Tanta qualità, tanta qualità. No, l'abbiamo chiamata qui per smentire questo fatto che, sai, noi abbiamo da mesi che le donne non possono parlare di calcio. E invece sarà confermato che le donne abbiamo non parlato qui Ilaria D'Amico, no, Marina Presello. Ma ieri c'era una sulla rubrica Io Donna, il Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, tra l'altro poi mi ha riempito di complimenti, quindi approfitto per ringraziarlo anche in radio, proprio una mini intervista proprio su questo, sul fatto che le donne sono ormai assolutamente parte integrante del gioco. Non quelle ragazze che tiravano le bottiglie alle quali si faceva riferimento prima, ma insomma quelle che amano questo sport. Vi ascoltavo, io credo sinceramente che la Francia sia a pezzi, ve lo dico proprio senza nessuna diplomazia, e sono al di là, chiaramente noi spesso abbiamo una rivalità sportiva molto forte con i francesi, però fa male vedere un grande paese, una grande democrazia, un paese che dovrebbe essere organizzato, che dovrebbe essere pronto così veramente allo sbando dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico. A Marsiglia è successa una cosa senza precedenti, perché questa cosa è durata 3 giorni. Questa cosa è durata 3 giorni e ieri è stato il giorno più grave, e il giorno più grave è arrivato dopo 2 giorni in cui già c'erano stati casini. Sì, c'erano avvisaglie, c'erano i precedenti, c'era tutto per pensare di poter intervenire. Oltretutto, questo è preoccupante. Questo adesso non, chiaramente le ricostruzioni, vediamo sulla stampa inglese sono di terrore, tipo sulla stampa non quei tipi. Pronto? Sì, ecco. Pier, vai. Dico sulla stampa inglese ci sono ricostruzioni di un certo tipo, sulla stampa francese di un altro tipo, però a me sembra abbastanza chiaro che l'uliganismo all'inglese è legato all'alcol. Io sento delle voci, voi sentite delle voci? No, probabilmente no, sì, sentiamo che noi. Volevo dirti che hai dei problemi seri. Secondo me bisogna esorcizzare Pardo. No. Esci da quel corpo. La voce era quella di Dario Ricci, Dario. Ah, ok, perfetto. Mi rincuora Ricci, no, perché io ti voglio bene, ma addirittura cominciare a sognarti sarebbe, insomma, abbastanza inquietante, diciamo, per la mia virilità. Sì, c'era un'interferenza. Dopo la peperonata può succedere, ma insomma. Sì, Dario, che cosa succede? Dario, cosa succede adesso a Lione, che poi so che ci salutiamo, poi ci riagganciamo dopo nella seconda ora. Ma adesso il programma è quello abituale della vigilia, fra poco parlerà Wilmots e con Azzar, quindi sentiremo un po' le voci dei protagonisti, poi come ricordavi 19:45 Buffon e Antonio Conte, insomma, anche come abbiamo detto più volte in questi giorni, conteranno le facce, no? Vedere le facce più che sentire le parole, che probabilmente non entreranno nell'analisi di questo europeo, e immagino che comunque tutti i protagonisti esprimeranno anche la loro condanna sui fatti che stavate già commentando. Sì, assolutamente, se posso permettermi, inutile di fronte a quello che abbiamo visto. Devo dire, però, anche, se va detta la diciamo, e va bene così. La questa dell'UEFA lascia, insomma, mette il coltello da parte del manico ancora di più, forse agli stessi hooligans, perché insomma, dire che sì, la minaccia di esclusione delle nazionali in un certo senso rende più forte chi ha fatto quello che abbiamo visto a Marsiglia in questi giorni. Grazie Dario, allora ci sentiamo dopo. Grazie Dario. Nazionale grazie, che a voi, sta, grazie a voi. Sta partendo coi sorrisi, almeno il nostro Nosotti ci scrive che Conte si è fermato, ha firmato autografi, ha sorriso con i tifosi, insomma il clima sembra buono alla partenza. Ecco, che impressione ti sta facendo Pier questi primi giorni in Francia della nazionale? Le chiacchiere stanno a zero, diciamo che c'è una piccola speranza, c'è un ottimismo che sotto traccia mi sembra stia crescendo, perché siamo l'Italia, e dobbiamo ricordarci di esserlo, e siamo una grande cultura calcistica, siamo un grande paese, veramente non voglio fare discorsi a bischio. Sì, forse siamo meno peggio di quello che pensavamo fino a qualche settimana. Aspetta che lo chiediamo anche a Marcello Di Dio, inviato del giornale, sempre a Lione. Marcello, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Non è così brutto il clima che si respira intorno all'Italia in questa vigilia? Ma guarda, intanto la sede del ritiro è assolutamente un'oasi felice rispetto a tutto quello che sta succedendo in Francia in questi giorni. Ritiro blindato, nemmeno più di tanto, poi la presenza della polizia non è così opprimente, diciamo, nella città. E poi soprattutto sì, si viaggia a fari spenti e con un profilo basso sicuramente sin dall'inizio del raduno di Coverciano, si vedono poco gli allenamenti, Conte sta coprendo molto tutto il suo lavoro, lo sta nascondendo molto bene, quindi effettivamente sì, non c'è un'ansia da debutto, ecco. Non c'è l'ansia da prestazione. Mi date questa risposta, se davvero Conte sceglierà di giocare non con due esterni offensivi ma con Darmian al posto di El Shaarawy e De Rossi al posto di Thiago Motta, come dobbiamo interpretarla? È un mezzo passo indietro? No, è un po' di timore? È invece un ragionamento intelligente di equilibri? Certo. Da chi parte? Pier? Parto io, ed è un ragionamento intelligente di equilibrio, perché quella col Belgio è sicuramente, almeno sulla carta, la partita più difficile delle tre, oltre a essere la prima. E sicuramente Conte farà dei cambi, magari contro l'Irlanda o contro la Svezia avremo una formazione un pochino più offensiva. Contro il Belgio, che comunque ha una grande qualità in mezzo al campo, c'è bisogno di robustezza. Il segno di, diciamo, il marchio di fabbrica di questa squadra nelle scelte di Conte è stato certamente più la quantità della qualità. È rimasto a casa per esempio un giocatore come Bonaventura, è rimasto a casa un giocatore come Jorginho. Sono due segnali molto precisi della scelta, appunto, più di lotta che di governo di questa nazionale, e domani delle tre partite del girone è quella nella quale questo aspetto verrà ulteriormente sottolineato, quindi mi sembra la formazione, mi sembra scontata. Pier, francamente, sì. Dammi pure dell'incompetente, no, tu puoi farlo, però questa nazionale a sensazione, adesso ti parlo proprio di sensazione, di emozione, la vedo più, non lo so, vicina al momento anche italiano. Abbiamo bisogno di un po' di semplicità di più, senza nomi roboanti, perché alla fine poi è una nazionale che è diversa da come tutte, insomma negli anni cambia, però questa la vedo più simpatica, anche se è un termine comune, però a me sta più simpatica, più naif. Dipenderà un po' dai risultati, secondo me, non so farti Mannheimer o Piepoli dirti quella che è la percezione sulla simpatia di questa squadra. Probabilmente non è la partita come simpaticissima, però probabilmente si sta riguadagnando qualche simpatia. Cioè, poi, senza fiducia, tanta fiducia attorno non c'è. Ma noi quando si avvicina, ecco, l'evento, noi siamo proprio italiani. Sì, non entriamo mai nel clima 20. Sì, poi non sempre va bene, Pier. Aspetta, no, certo. Però fammi rispondere, Marcello Di Dio, alla domanda di prima. Cioè, se è un passo indietro quello di Conte o se invece è una lettura realistica di quello che è. Guarda, il Belgio. Io sottoscrivo quello che ha detto Pier, aggiungo soltanto un piccolo elemento in più, cioè Conte continua a dirci che gioca chi sta meglio fisicamente, evidentemente lui vede in questo momento i Darmian, i De Rossi nei ballottaggi, diciamo, che sono quelli dell'ultima ora, più in forma dei loro avversari, quindi degli El Shaarawy, scusami, e dei Thiago Motta. Per cui, ecco, al di là di quello che ha detto Pier, che è giusto, cioè comunque una squadra di equilibrio, una squadra di lotta, questa sarà una nazionale con l'elmetto, lo ha detto anche Buffon qualche giorno fa a Coverciano, sicuramente c'è anche questo aspetto, cioè l'aspetto fisico, che è importante in un torneo così breve in cui le energie vanno sparate subito. Sì, anche perché l'esperienza che abbiamo da due delle ultime tre grandi manifestazioni nel girone è un'esperienza assolutamente tragica, sportivamente parlando. Grazie Marcello. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Marcello Di Dio, 800 24 00 24, il traffico, torniamo subito. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Tutti convocati. L'angolo di Giacca, l'uscita, vuoto dal portiere, colpo di testa, rete. Il gol del vantaggio della Svizzera. Ha segnato Schär al quinto minuto. Let's close our eyes and let the moment shine the whole world out. Pallone dentro, Robson Kanu! E Galles torna in vantaggio con Robson Kanu, ancora una volta decisivo, un uomo dalla panchina, nuovo sorpasso dei dragoni. Kane lascia la punizione. Dyer trova su punizione l'angolo giusto. L'Inghilterra rompe il muro russo e va in vantaggio. Al limite mette il cross morbido. Arriva Berezuski di testa e piazza il pallone in porta. Ha pareggiato la Russia. Ha pareggiato nel recupero. C'è un amico che scrive via WhatsApp. 349-238-6666, se non sono troppe 24 nazionali in una fase finale dell'Europeo. Ora io non so come la pensate voi, ma mi sembra che queste prime due giornate e mezzo in realtà abbiano fatto vedere belle partite equilibrate. Quindi credo che non sia oggi questo il problema. Intanto saluto anche Walter Novellino. Ciao Walter. Ciao, ciao, buonasera. Chi vi ha convinto di più, compresa la Croazia vista oggi? Walter Novellino, più Luigi Pardo, Marina Presello. Walter. A me sia l'Inghilterra che la Croazia. Bella oggi la bella, Croazia. Bella, sì. La Croazia. Tutto c'ha, c'ha tutto, qualità, gioco, personalità, giocatori che saltano l'uomo, anche una serenità. Mi è dispiaciuto molto per l'Inghilterra, che ci punto molto. Pier? È la mia preferita. Beh, è anche la mia preferita. Io penso che è una meravigliosa utopia questa Inghilterra, con Rooney alla Pirlo, sì, con tutta la qualità davanti. Giovanissima. Però ti dico che dopo tanti anni, secondo me, è un'Inghilterra che ha delle possibilità. Sì. Poi, se adesso non lo metto in croce, io ho seguito per esempio il mondiale sudafricano con Capello, dopo il primo pareggio 1-1 con Papa del portiere, Capello era già stato messo in croce. Io penso che allenare la nazionale inglese sia difficilissimo, perché c'è un pezzo di stampa inglese che non aspetta altro che le cose vadano male per fare polemica. Qui lo dico e qui lo confermo. Da tutte le parti, però. Sì, però posso dirti, io ti dico la verità, da noi, io ho avuto tra l'altro anche una polemica con un paio di colleghi inglesi, perché c'era stato proprio un discorso di, se vuoi, anche di deontologia professionale. Nel senso, io ero rimasto sconvolto da come Capello è stato trattato dopo. Capello, non ci dimentichiamo che si qualificò con 9 vittorie su 10 partite, in anni in cui l'Inghilterra faceva ridere. Si qualificò benissimo a quel mondiale, e dopo il primo pareggio venne fatto fuori, cioè dalla stampa inglese, addirittura gli diedero dell'asino, Capello de Danchi, mi ricordo il titolo del giornale, e io avevo discusso con un paio di giornalisti, dicendo: ma voi siete matti, e questi qui mi avevano attaccato, cioè mi avevano detto che invece ero io che ero troppo, diciamo, sdraiato sulla nazionale, quindi secondo loro non facevo bene il mio lavoro. Ma insomma, secondo me c'è una via di mezzo, se esiste un'onestà intellettuale, ma esiste anche un minimo di studio. Ma Rooney alla Pirlo, che devo dire è abbastanza sorprendente come evoluzione di carriera di uno che all'inizio è stato un grandissimo attaccante, punto di riferimento centrale, poi forse paga anche questo fatto di essere disponibile a correre sempre lui per tutti, alla fine si trova a fare il mediano, il regista. Ieri non lo so, è una grande intuizione, Walter, è una follia, che cos'è? No, una grande intuizione, non follia. Ricordatevi Pirlo, era una mezza punta, Però era giocatore diverso, Pirlo. Era un trequartista, che Rooney in questo momento, onestamente, la porta la vede poco. È un giocatore che ha grande personalità, ha anche gli inserimenti e secondo me potrebbe fare l'interno più che altro che il regista, più l'interno, perché si potrebbe inserirsi più facilmente in zona gol, perché lui in zona gol, come abbiamo notato ieri, ha avuto due occasioni, le ha create. È un giocatore che a me piace, che ha qualità e l'Inghilterra di ieri ne aveva tantissima. Ha rischiato anche tanto, secondo me, l'allenatore. Se giocavamo così con due mezze punte in mediana, più tre quartisti, insomma, è una punta, insomma, io credo che l'Inghilterra, giovane tra l'altro, sì. A me piace. Ma anche dove può arrivare? Dove può arrivare? Io la vorrei vedere tra le prime quattro. Mi piacerebbe vedere questa Inghilterra di 25 anni di media, di età, anche se la Croazia, devo dire che non sono d'accordo con sia con Walter che con la mia Croazia piace da morire da parecchi anni. Secondo me è una delle nazionali che gioca il calcio migliore, vuoi anche per vicinanza territoriale, però... sono le squadre che mi piacerebbe vedere avanti, oltre chiaramente, vabbè, il cuore, l'Italia. Sì, ma la Croazia ha Modric, chiaro. Rakitic, Brozovic, Perisic, Mandzukic e abbiamo dimenticato Badeli. Badeli è fortissimo. Fortissimo. Questi sono. Squadrone. Abbiamo citato gli ultimi sei, dal numero 6 al numero 11, con le vecchie numerazioni. È davvero uno squadrone, Pier. Tra l'altro, attenzione, perché è nel girone della Spagna, la seconda di quel girone incrocia con la prima del nostro, quindi potrebbe essere un problema la Croazia o eventualmente la Spagna per l'Italia o per il Belgio. Sì, sì, assolutamente. Ma a me ti dico, la Croazia è piaciuta molto, oggi l'ho vista e mi sembra che abbia grandissima qualità, forse non è ancora completamente compiuta, però è una squadra di grande qualità, soprattutto in mezzo al campo. L'Inghilterra è un progetto interessante, come giustamente è stato sottolineato. È chiaro che Rooney lì è una, se vuoi, un'eresia, però è una bella eresia. È un'eresia di chi vuole giocare a pallone, di chi vuole avere qualità e gol anche a 20 metri dalla porta. Quindi è un segno di forza, secondo me, di personalità da parte di Orson. Ripeto, se non lo massacra la stampa inglese, secondo me può fare bene. E poi sul discorso dell'Europa 24 squadre a me non fa impazzire, ti dico sinceramente. 24 squadre significa un po' come l'Eurolega di basket, basta non fare proprio disastri e vai avanti. E poi si ricomincia tutto dagli ottavi di finale. Sì, però fin qui abbiamo visto belle partite, sì, belle, sì, sì, equilibrate, sono belle perché credo con al massimo un gol di scarto, quindi partite che comunque in tre casi su cinque si sono chiuse con gol negli ultimi 10 minuti, quindi insomma sono valori importanti in queste prime giornate. Sì, sì, assolutamente. Per ora ci stiamo divertendo, non c'è nessun dubbio. Sono curioso di vedere la Germania, che penso stasera potrebbe essere la prima della goleada dell'Europeo, e anche la Polonia credo che possa vincere abbastanza facilmente. Vista la Francia venerdì sera, confermi il pronostico Francia sulla Germania, Pier? Sì, voglio sentire anche l'altra. Anche se non mi è piaciuta molto, però era pure vero che era... Partitina, quella della Francia. Sì, però era una partita d'esordio, c'era grandissima pressione da tutti i punti di vista, quindi io penso che la squadra della Francia sia comunque abbastanza in discesa. Poi, ti ripeto, che è il motivo che mi rende anche felice e ottimista, è che già questa è una competizione molto... molto lunga. Liquida, no? Molto liquida, nel senso molto dove c'è spazio per le sorprese. In più con questo tipo di formula, dove veramente se non fai disastri passi agli ottavi di finale, poi comincia un mini-torneo con quattro partite che cominciano a 0-0, secondo me l'Italia è un tipo di terreno nel quale se la può giocare bene. Io la penso come Pier, perché poi lì anche sulla partita secca te la puoi giocare, può sempre succedere qualcosa, l'episodio piuttosto che il tocco di qualcuno, qualche genialata così, e quindi passata poi questa prima fase può davvero succedere tutto, ed è questo insomma il bello poi alla fine di questi tornei, no? Intanto stanno per scendere campo Polonia, Italia del Nord e Irlanda del Nord. Per chiudere con Walter Novellino, mi dai un voto alla partita della Francia? Per me da 5.5 al di là della vittoria. 5. Non mi è piaciuta molto, a dire la verità. È la squadra che in queste quattro partite è la squadra che forse ha ragione Pardo, è la prima partita iniziale, è ovvio che l'emozione può dare questa partita, può far vedere questa partita. Al di là di questo io credo che la Francia era quella che mi è piaciuta molto di meno, però il campionato è lungo di questo europeo. Sì. Si può rifare alla grande, sì, sì, la sì. Prima è sempre si, può, si può anche vincere così, il debutto è sempre al 91esimo così, da farlo, schiacciati dalla pressione. Grazie Walter Novellino. Grazie a voi, buona serata. Grazie Walter, buona serata. Alla prossima, 800 24 00 24, abbiamo un minuto di tempo. Moreno da Milano, Moreno. Sì, buonasera. Eccoci. Io volevo Dai. Intervenire sugli incidenti della, sì. di ieri. Ecco, due cose. Uno, secondo me, paragonare il Brasile dove c'è la Francia solamente a livello geografico per gli hooligan, sappiamo bene da dove arrivano, un po' di e due, sono parzialmente contento, così la finiremo magari in Italia, di dire che noi siamo gli invincibili e nel resto del mondo sono tutte delle persone fantastiche. Sì, che noi non sappiamo così. Organizzare, esatto, che gli altri vero, invece ce lo sanno. Dicono sempre. Sì, però è triste quello che sta succedendo in Francia e che è successo in questi giorni. È triste e preoccupante, ragazzi, Moreno, oggi come oggi ci raccontava stato, Andrea oggi Sorrentino. È stato uno... Oggi è stato uno in campo. Oggi è stato in campo. Ma di che stiamo parlando? Ieri ci sono stati tafferugli dentro lo stadio. Tafferugli dentro lo stadio non si vedono da tempo, veramente clamoroso. Hai fatto bene a sottolineare l'esempio brasiliano, che era un paese in crisi, con gli scioperi, con tutti i movimenti, le favelas, con mille incognite, alla fine è andato tutto bene. È riuscito a organizzare un mondiale in maniera più che sicura e dignitosa. Pier, abbiamo il GR delle 18, poi torniamo 800-24-0024, vi raccontiamo anche Polonia e Irlanda del Nord. Torniamo subito. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Dal 17 al 25 giugno Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Siete tutti convocati. Tutti convocati. Chanson juste pour toi. Chanson un peu triste, je crois. Ecco l'ingresso di Martial ed esce Pogba. Giusto, condivido. Sono usciti Griezmann e Pogba, forse i due più attesi della Francia. Questa sera secondo me non era in grandissima forma, ha fatto una grandissima giocata al primo tempo, però poco ritmo, poca velocità di esecuzione. Diciamo sempre che non è mai le prime 11 che finiscono. La partita, quindi... È molto importante le sostituzioni, pure quindi abbiamo fatto bene, guarda che Coman che è entrato ha fatto molto bene, ha dato l'energia che avevamo bisogno e poi la vittoria è venuta. Abbiamo messo, carissimo Piero, una canzone triste, l'hai sentita? Triste. È una triste. Canzone triste. No, più triste. Oh. Na. Per una prestazione triste, no, dopo, aspetta, dopo. Per una prestazione triste, quella di Pogba di venerdì sera. No, può succedere, però, insomma, per uno che si deve caricare sulle spalle una nazionale, un sogno, l'etichetta dei mister 120 milioni, perché 100 non bastano più, credo si potesse decitamente aspettare qualcosa di più. Sì, ma sicuramente, questo non c'è dubbio. Detto questo, è la prima partita, non arriverei già a delle conclusioni eccessive su una presunta poca personalità in questi match, insomma. No, però mi sottolineava qualche ascoltatore, ad esempio, che non è stato bello vedere Paie piangere, e ricordava i giocatori brasiliani schiantati dalla pressione 2 anni fa piangere sempre, anche quando le cose andavano bene, quando segnavano, e faceva questo parallelismo interessante. Io non so se sia vero, Pier, però effettivamente le pressioni potrebbero condizionare fortemente questa Francia. Sì, le pressioni, è chiaro, il fattore campo lo sappiamo, è un'arma certamente a favore, ma può diventare in certi casi anche un elemento di pressione. Negli ultimi anni, in generale, se guardiamo gli europei e anche i mondiali, mi sembra di poter dire che sicuramente il fattore campo non ha funzionato più come nel passato. Nel 2006 la Germania ha fatto un buon mondiale, ma non è bastato. Nel 2014 in Brasile sappiamo benissimo come ha perso in semifinale contro la Germania. Mi sembra, insomma, francamente che ci siano, che sicuramente l'elemento della pressione di un intero popolo te la puoi sentire addosso, e quindi può diventare un'arma a doppio taglio rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, quando forse c'erano meno pressioni mediatiche in assoluto e quindi il fattore campo poi alla fine era un vantaggio e basta. Oggi probabilmente è un vantaggio se riesci a governare l'infinita pressione che ti piove addosso, che nel caso per esempio del Brasile di 2 anni fa è stata veramente enorme, al di là dei limiti tecnici del Brasile, che insomma il Brasile non è uscito perché giocava in casa e aveva pressione, è uscito perché evidentemente era meno forte della Germania, come si è dimostrato forte, all'orizzonte. Sì. Però anche come la vivono loro è diverso, no? Quello che vive il Brasile per cultura rispetto, non so, a un francese, io me lo vedo un po' più difficile, il francese emozionato che sente la pressione, forse sì, l'esordio sicuramente. Pogba avrà anche deluso, però dicevo non ha fatto neanche un gioco molto consono alle sue caratteristiche, tornava tanto Francia, indietro a Francia prendere ha palla. Ha vinto in casa l'europeo e ha vinto in casa il mondiale, quindi diciamo che ha una storia da questo punto di vista assolutamente perfetta. Però l'ha fatto sempre con due fuoriclasse, Platini e Zidane, cioè il tema è, ed era quello di cui parlavamo forse anche venerdì. Forse è troppo giovane Pogba per essere un fuoriclasse. Pogba ha questo mese per cominciare a dimostrare di essere quel giocatore lì, perché quella è l'attesa, non lo diciamo noi, quella è l'attesa, ed è forse il giocatore che ha più da perdere e più da guadagnare da questo europeo. Secondo me lui caratterialmente c'è in questo senso. Forse la prima, ma proprio per caratteristiche di gioco di squadra, però è uno che in quanto a testa può da una partita all'altra davvero cambiare, può trascinare la Francia, e secondo me si emoziona nel giusto, non troppo. C'è un amico, Riccardo da Cremona, che ha scritto 349-238-6666 per ricordarci che noi con la Croazia al ritorno nel girone di qualificazione abbiamo fatto una bella figura e quindi non dobbiamo sopravvalutarla. No, ma io guarda, ti dico la verità, io penso che noi siamo un outsider, chiaramente, non siamo i favoriti e la cosa non ci deve neanche dare troppo fastidio, perché storicamente si aiuta non essere troppo favoriti. Siamo una bella squadra dal punto di vista della tradizione, dal punto di vista dell'esperienza, secondo me dal punto di vista dell'allenatore. Non abbiamo certamente in questo momento il talento che abbiamo avuto nelle migliori occasioni, però abbiamo una squadra molto solida. Domani secondo me scendiamo in campo con l'assetto più difensivo delle 3 partite, perché domani abbiamo l'avversario più forte e perché è la prima partita. Perché possiamo dirlo, anche perché le altre 2 magari ci tocca doverle vincere a tutti i costi. Esatto, ecco. Domani, come domani. Purtroppo ci è capitato più volte dopo il mondiale del 2006 e non sempre ci è andata benissimo. Certo. Poi c'è un altro amico che chiede perché Prandelli è così poco considerato in Italia. Io me lo chiedo anch'io, cioè non capisco ad esempio questa traiettoria di Lotito e della Lazio, che ha prima stretto un mezzo accordo con Prandelli e poi ha aperto il casting in tutta Europa per cercare un altro allenatore. Non lo so, cioè, secondo me se gli dà in mano un progetto, insomma. Ribadisco, purtroppo è uscito a pezzi dal mondiale, secondo me anche oltre i suoi elementi, sì. perché sono passati 2 anni di Prandelli, sono passati 2 anni. L'europeo di 4 anni fa è stato un ottimo europeo nel quale si è perso in finale anche perché si era molto stanchi, ma si è centrato un risultato pazzesco, e io sono convinto che se fosse passato il Portogallo invece della Spagna e poteva andare così ai calci di rigore, sappiamo invece vinta la Spagna, forse eravamo noi favoriti di quella finale. Comunque abbiamo fatto secondo me un ottimo europeo e abbiamo fatto un buon percorso di qualificazione per il mondiale, e poi Prandelli secondo me ha capito pochissimo dell'esperienza brasiliana, sono stati fatti degli errori di preparazione, degli errori sono anche di logistica. Sì, però c'è quasi un accanimento, ha ragione l'amico da casa, perché oggi credo che Prandelli è qualcosa di strano. Viene sempre nominato ovunque, però effettivamente chiusura sì, mai. Sì, è il destino di quelli che vengono nominati troppo, sì. Come la nostra Marina Presello, 800 24 00 24, c'è il traffico. Poi, Pier, lanciamo una meravigliosa iniziativa di tutti i convocati weekend, proprio per questi europei. C'è l'angolo del competente, perché noi non siamo Sky, non siamo Mediaset, non siamo la Rai, ma anche noi abbiamo per l'europeo i nostri super opinionisti, Pier. Dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. L'angolo del competente. Poi hai sentito, Pier, l'angolo del competente, che insomma questa rubrichetta, così facciamo il punto sul tema tecnico dell'europeo della domenica. Oggi, carissimo Pier, abbiamo, reduci dalla delusione insomma per il playoff della Serie B, il nostro Serse Cosmi. Ciao Serse. Ma io saluto tutti. Oggi ho voglia e sono orgoglioso di stare qui con voi in allegria. Bene. No, Serse no. Aspetta, chiamiamo Oddo a consolare. Io sento ancora una fitta nel cuore, hai che dolore. No, noi lo capiamo, Serse, lo capiamo, però sei qui per parlare dell'Italia. Noi non meritavamo questa sconfitta, non è stata assolutamente una defaia. Parliamo dell'Italia, domani c'è il Belgio, noi ti abbiamo chiamato qui per il nostro punto tecnico. Sì. L'angolo del competente. Allora, prescindere dal valore dell'avversario, l'Italia ha un punto fisso sul quale io punterei, l'attaccante, la Padula. No, è la Padula è del Pescara. Io capisco che il Pescara è un'ossessione, Serse, ma non è stato convocato, non c'è. Ah sì? Quindi no, non c'è. Ah, la Padula mi ha impressionato perché è come un uccello, la Padula che vola all'altezza. No, a centrocampo c'è il ballottaggio, Thiago Motta, De Rossi. A centrocampo. Ma io sceglierei un grande giocatore del Pescara, Verratti. Verratti è un giocatore che mi ha sempre impressionato. Ma gioca nel Paris Saint-Germain. Pier, c'è una leggera ossessione del nostro per il Pescara. Immobile e Insigne, sai che squadra hanno giocato? Immobile e Insigne hanno giocato dove? Ah, perché hanno giocato? Sì. No, hanno giocato in carriera. No, allora, passiamo alla difesa, centrocampo, attacco e lasciamo stare. La difesa, chi ci mettiamo? Allora, in difesa farei giocare Pertigone, Pagliarulo, anche lui vola all'altezza. No, questa e Scognamiglio. Questa è la difesa del Trap, non si può. Non ma si sono, può. Bravissimi ragazzi. Non sono stati convocati, quindi non si può. Ah sì? Sì. Non sono stati convocati? No, non li hanno chiamati. Ma io, dov'è il Serse di tristezza, ragazzi? Io voglia essere orgoglioso che l'Italia incominci vittoriosa contro una squadra di grandi campioni. Per esempio, perché il Belgio è grandi campioni. Chi ammira nel Belgio, Serse? Ma è un giocatore che ho sempre ammirato, è Schifo. Sì, no, ma non gioca più, si è ritirato, quindi... Gerets. No, non gioca più. Kuleman. Non gioca più. Cazzo, non gioca più nessuno, la maledizione, di Lappadulo che me l'ha messo tre volte. È finita. Questo è finito. Questo era il nostro angolo del competente, Pier, l'angolo del competente. Inizia a stufarmi di sentire delle stronzate da pseudo intenditori di calcio. Oh Pier, dai, torniamo un po' sulla vigilia dell'Italia. Mi fai dire una cosa? Sugli hooligans. Secondo me, da quello che si è capito, ovviamente ancora sono ricostruzioni parziali, in qualche caso si può anche pensare che siano veramente di parte. Insomma, gli hooligans inglesi li conosciamo, essenzialmente gli devi togliere la birra, non è che ci vuole molto. Gli inglesi hanno storicamente fanno delle grandissime adunate di persone dove, se riesci a limitare il tasso alcolico, quasi sempre elimini i casini. E infatti mi sembra che poi alla fine ieri, da tutte le ricostruzioni, si è capito che sono stati invece i russi molto più organizzati in maniera veramente paramilitare, con dei gruppi molto più determinati, molto più lucidi, a creare il panico. Gli inglesi il panico l'hanno creato, non sto dicendo che non abbiano responsabilità, hanno enormi responsabilità, però è veramente incredibile aver consentito agli inglesi di bivaccare per 3 giorni e portarli su una situazione così alcolica. C'è una catena di errori e io credo anche di ipocrisie. Cioè, in tanti ci scrivono, provate voi a far vietare a un commerciante la vendita di alcolici davanti a 500 energumeni, ma si fa in tutta Europa. Si è fatto perfino nella piccola Udine, ma con i tedeschi del Werder Bremen. Non è che lo prendono a schiaffi. Insomma, fatemi salutare Francesco Guidolin, che ringrazio in maniera molto sentita per questa partecipazione. C'è qui anche Marina Presello. Marina, ciao. Ciao, buonasera a tutti voi. Che è reduce e poi proseguirà, insomma, nella sua esperienza inglese. Io non so che effetto è gallese il mister. Sì, gallese. Non so che effetto gallese. Che effetto ha fatto, insomma, tornare a vedere quelle scene. Sì, speravo che fossero dimenticate, che facessero parte del passato, ma purtroppo non è così, quindi tanta tristezza, tanta rabbia, anche perché non dovrebbe essere così. Mi sembra che sugli stadi, dentro gli stadi, spero che sia così, l'atmosfera sia proprio bella, quella di festa e di evento sportivo. Fuori però, fuori è un'altra cosa e non ho particolari commenti, se non quello di dire che appunto speravo di non vedere più scene di questo genere, di non commentarne più, di non sentire più commenti su queste cose. Sì, era qualcosa, ma purtroppo che non è così. Pensavamo di aver sepolto e poi tanti scrivono, tirano in ballo il modello inglese, però lo sapevamo, ma lo sappiamo da almeno 15 anni che gli inglesi hanno risolto a casa loro il problema, dentro gli stadi, o almeno l'hanno spostato fuori, però il problema c'è ancora. Esatto, dentro gli stadi non succede niente, è tutto... In Inghilterra parlo nel Regno Unito, comunque sei a contatto con la gente, misure di sicurezza, ma è proprio il clima, è proprio quello della festa, la partita di calcio nel Regno Unito, ma fuori è rimasto come una volta, insomma, verosimilmente. Mister, questi mesi di Premier, questi mesi in Galles, in che cosa ti hanno ulteriormente arricchito? La cosa più bella, più sensibile che hai imparato, insomma, la cosa che magari non ti aspettavi? Ma l'educazione della gente è qualcosa che mi ha colpito, l'educazione e la cordialità della gente del Galles, è in generale un po' dappertutto. E poi che appunto la partita è un evento, una gioia, una festa per le famiglie, e quindi questo l'ho toccato con mano, ne ho sentito parlare per tanto tempo, era l'occasione che aspettavo, era da tanto tempo, da tanti anni che avevo voglia di confrontarmi con questo tipo di calcio, ed è arrivata l'occasione e sono contento di averla vissuta e sono contento di continuare a viverla. Francesco, ma queste cose che sono le cose che mi hanno colpito di più. Francesco, ma vai in bicicletta in Galles? No. Anche perché è tutto piatto, no? No. I percorsi e le ci sono delle bellissime colline, ma è più adatto a camminare e a correre a piedi per uno che ha voglia di fare un certo tipo di sport, perché il tempo è la cosa, il clima è la cosa più penalizzante di questi posti, di questo posto. Piove 5 minuti, spesso, no? Sì, e c'è molto vento, quindi per la bicicletta non è consigliabile. Mi fa strano Guidolin senza bici. Sto cercando di darci dentro in questo periodo di vacanza per poi ricominciare a vivere senza, ma insomma si può fare, non si può avere tutto dalla vita. No, non si può avere tutto. Ti posso chiedere cosa ne pensi di quella che sembra delinearsi l'Italia domani contro il Belgio, 3-5-2, un po' più di equilibrio rispetto ad alcune cose che sembrava di aver intuito nei giorni scorsi, quindi soltanto un esterno offensivo, De Rossi al posto di Thiago Motta. È un passo indietro? È una lettura equilibrata di un match che è difficile? No, direi di no. Direi che è la sintesi di valutazioni fatte dal nostro commissario tecnico, ponderate, ritengo, sono sicuro, ovvio, perché Conte, sappiamo tutti, è un ottimo allenatore, avrà proprio pensato a tutto e quindi se ha deciso quel tipo di formazione che si vede sui giornali o negli ultimi oggi, ieri o che pare sia la formazione iniziale, vorrà dire che ha veramente ponderato tutte le cose. No, io credo che la nostra nazionale, al di là della formazione, possa fare bene, perché posso fare un buon campionato europeo. Ci dobbiamo mettere quel temperamento che che noi sappiamo tirar fuori in determinati momenti, e insieme a questo, alla qualità dei nostri giocatori, all'organizzazione che Conte dà alla squadra, sono convinto che possiamo fare bene. Ma qual è la nostra linea d'arrivo, il nostro obiettivo, la nostra prospettiva? Io ho trovato sagge le parole di Tavecchio alla vigilia: partiamo per vincere, se usciamo ai quarti però non fate drammi. Secondo me è una lettura giusta, Guidolin, poi Pardo. Sì, può essere, senz'altro, sicuramente sì. Intanto drammi non bisogna farne in nessun caso, perché voglio dire, sono manifestazioni. Sì, però altre sportive. Volte siamo partiti dicendo dobbiamo vincere, siamo più forti tra esatto, le prime quattro. No. Partire secondo me col profilo basso fa bene all'Italia calcistica, e in ogni caso secondo me è sempre meglio in ogni campo della vita essere abbastanza umili in partenza e poi magari riscoprirsi campioni. Penso che sia un giudizio equilibrato quello che ha dato Tavecchio, e credo che possa essere in linea con le nostre aspettative. Pier? Anche a quella non calcistica, se posso aggiungere, sì, perché sì, siamo proprio fatti così, nel bene e nel male, e in queste ore, ripeto, non deve essere mal comune mezzo gaudio, perché le immagini di Marsiglia sono una ferita per tutti gli europei, per tutte le persone per bene, però insomma, mi sembra anche da quello che sta arrivando dalla Francia che il livello di polemica sia nettamente inferiore rispetto a quello che ci sarebbe stato in Italia, no? Dove avremmo chiesto giustamente, secondo me, già dimissioni di ministri e cose. Quindi io dico che noi italiani spesso siamo bravissimi anche nel farci subito i processi da soli, ed è giusto farseli, per carità, però insomma qualche volta ci buttiamo un po' giù. Sull'aspetto tecnico, assolutamente, io credo che la formazione che si sta delineando domani rappresenti in pieno questo tipo di atteggiamento, che è prudenza, che è una nazionale veramente operaia, però che può far bene, anche perché poi delle eccellenze questa squadra, abbiamo detto in questi giorni, ce le ha, prima di tutto la difesa, e la difesa sappiamo benissimo che in una competizione come questa, che dopo una qualificazione tutt'altro che impossibile agli ottavi di finale diventa 4 partite, perché di questo stiamo parlando, 4 sì, partite da 90 o da 120 minuti, insomma, partire da una difesa come la nostra, secondo me, forse è più importante che avere un attacco. Sì, gli amici stellare, a casa sono, no? Un po' più perplessi da Eder, 3 gol nel 2016, e che domani sì, molto sì, probabilmente partirà. Ma non è che devi giocare 38 partite, cioè è chiaro, no, che... Però è evidente che è un attaccante. Io credo, e poi salutiamo Guidolin, credo che sia la conferma che poi gli allenatori, quando fanno un percorso con un gruppo, fanno fatica a cambiare in corsa le scelte. Io ripeto questo concetto: se Conte ha deciso di fare in questo modo, vuol dire che ci ha pensato bene. È da tempo ormai che allena questo gruppo, è convinto che possa fare bene giocando in questo modo. Adesso che ci sia un esterno più o meno offensivo, che secondo me cambia poco. Sicuramente lui saprà tirare fuori tutto il meglio che possiamo avere dai nostri giocatori, e questa è una qualità dell'allenatore, e sono convinto che i ragazzi daranno tutto quello che hanno. È supportato all'interno del gruppo da 2 o 3 giocatori, prima di tutto Buffon per esempio, ma tutti quelli della vecchia guardia che sono sulla stessa lunghezza d'onda dell'allenatore, e questo è straordinariamente importante, credetemi, perché nello spogliatoio si costruiscono le cose importanti. Grazie Guidolin. Ciao. Grazie Francesco. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Francesco Guidolin. C'è la pausa, ci fermiamo. Ti saluto prima, Pier. Ciao. Ciao, sì, Pier. Io continuo la mia pennica su Polonia, Irlanda del Nord. Sì, 0-0. Per ora meglio Foggia Pisa, lo dico senza che nessuno si offenda. Già che ci sei, se vuoi aggiornarci sul risultato, così. Guarda, adesso gli faccio zapping un secondo, che si mette il canale, sempre 0-0. Sempre 0-0. Però posso fare palle gol per il Foggia. Ricordiamo che il Pisa deve difendere il 4-2 dell'andata per salire in Serie B. Invece, Gattuso in camicia scura. 32esimo, Polonia 0, Nord Irlanda 0. Torniamo subito. Ciao Pier. Conte, ciao, la saluta al mattino, le spiego. Perché mi hanno detto che è entrato in una trance agonistica. Noi ci sentiamo. Ci com'è l'ambiente? Ci salutiamo con Conte sempre. E parliamo anche, non ci salutiamo. Mangiamo insieme, quindi. Come sta vivendo? Perché adesso Belgio qua che arriva. Ma lui è concentratissimo, ma non è mica solo di oggi, sì. Dovresti conoscerlo. Tutti convocati. Tutti convocati. Ancora 0-0 Polonia-Irlanda del Nord, 37 minuti 30 secondi, Polonia che ci sta provando in tutti i modi, ma fin qui i palloni giusti sono finiti, sono capitati sul piede di Milik, nome caldissimo sul mercato, meno caldo come piede oggi a Nizza, ancora ennesimo calcio d'angolo e nulla di fatto per la Polonia. Antonio da Verona, Antonio. Eccomi, buonasera. Eccoci. Devo dire che ho finito sempre moltissimi spunti di riflessione. Volevo cominciare da quello che ha detto, credo fosse Pardo. Sì. Se fosse accaduto in Italia quello che è successo in Francia, ci saremmo fatti già il processo da soli. Sì, ma giustamente, Antonio. Giustamente. Però attenzione, noi facciamo sempre questo tipo di errore. Ci sentiamo sempre peggio di quello che siamo in realtà. Se posso usare la parola che ci manca è equilibrio, nel senso che una valutazione oggettiva su quello che siamo e su quello che possiamo fare e su quelli che sono i nostri problemi. Gli inglesi hanno risolto il problema degli hooligans in casa loro con dei provvedimenti. Sì, l'hanno spostato, come ci raccontava spostato, anche Francesco Guidolini. Bravo, l'hanno spostato. Ecco, noi in casa nostra abbiamo assistito ai raid dei serbi a Genova. Assistiamo quasi tutte le domeniche o spesso a giocatori che contrattano con i tifosi sulla prosecuzione delle partite di calcio. Abbiamo avuto Gerry La Carogna e tutta una serie di... Io però non sarei così pessimista, Antonio. No, abbiamo non anche qualche segnale anch'io positivo, anche nascosto dentro, ad esempio, lo stadio olimpico vuoto di questa stagione, soprattutto per la Roma. Io, ma questa è una battaglia che porto avanti da mesi, credo che le istituzioni a Roma debbano tenere duro, debbano poi arrivare a una soluzione che sia condivisa, ma debbano farlo dopo aver imposto nuovamente il rispetto della legalità e delle regole, cose che per tantissimo tempo a Roma, ma non solo a Roma, in tanti stadi non era stata possibile. Antonio, io non butterei via tutto quello che stiamo facendo in Italia, dove però è evidente siamo indietro rispetto a questo processo, rispetto a quello che abbiamo visto altrove. Da gigante negli ultimi anni, cioè con tutte le polemiche, tessera del tifoso, trasferte non vietate, osservatorio, partite poi a Verona, il signore che chiama da Verona ne sanno qualcosa anche, no? Di una tifoseria particolare, però rispetto a qualche anno fa anche negli stadi sono stati fatti dei lavori, prefiltraggi, tornelli, la sì, sicurezza. A volte anche esagerati. Sì, però cioè abbiamo è delle stato strutture fatto. Che poi sono... è chiaro che la regola va rispettata e spesso non viene rispettata. Mi sembra che però la strada sia quella del rispetto di queste regole. Intanto McGovern, portiere dell'Irlanda del Nord, ha negato alla Polonia il vantaggio. Siamo ormai nel finale del primo tempo, davvero una bellissima parata su Kapuzka. Torniamo a Lione dal nostro Dario Ricci. Allora, per avere in un minuto il report sul Belgio. Dario. Eccoci qua, Giovanni. Sì, Wilmots ha parlato, ha introdotto questa partita molto ben preparata, a suo dire, dal punto di vista tattico. C'è da crederci, perché è sicuramente allenatore dal palato fino e dalle capacità tattiche elevate. Non ha risposto, come era prevedibile, alle domande su Nainggolan, perché l'incrocio Conte Nainggolan stuzzica inevitabilmente anche noi giornalisti italiani, che abbiamo provato ad incalzarlo sul tema. E poi si è compiaciuto della presenza di molti tifosi belgi, di migliaia di tifosi belgi che garantiranno l'abituale supporto in questa occasione. Quindi, insomma, parole non indimenticabili come avevamo previsto. Ma ha paura soprattutto un po' dell'Italia o no? Che Conte aveva detto nei giorni scorsi, tutti comunque quando ci incontrano cambiano qualcosa. Hai avuto questa sensazione? La sensazione, vedendolo, Wilmots appare sempre un allenatore, una persona molto consapevole di sé, molto, molto preparata, quindi devo dire non ha tradito emozioni in questo senso. Sicuramente, ecco, la percezione di uno che la partita l'ha studiata bene, come anche un po' aveva fatto capire nei giorni precedenti, quindi sarà interessante vedere proprio chi tra i due riuscirà a spiazzare l'altro, perché sono due tattici non da poco, Sì, certo. Grazie Dario Ricci. Tra meno grazie di un'ora Antonio Conte e Gigi Buffon a Lione. Restate su Radio 24 tutta la serata. Continueremo a raccontarvi questa vigilia d'Italia-Belgio. Adesso però parliamo della vigilia del Gran Premio del Canada, Formula 1. I tried, guys. Lost a bit of traction out of the hairpin, but not enough. Scusami. queste le scuse di ieri di Sebastian Vettel. Saluto Giorgio Teruzzi. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao, buongiorno a voi, buonasera a voi. Allora, si parte alle ore 20, Hamilton in pole position, Rosberg che è rimasto staccato davvero di un'incollatura, 62 millesimi, poi Sebastian Vettel che abbiamo sentito scusarsi con il suo box, in realtà parte terzo, 178 millesimi davanti a Ricciardo, a Verstappen e a Raikkonen, e parte forse per la prima volta in questa stagione davvero con la consapevolezza di poter non essere soltanto uno spettatore. O no, ci illudiamo, Giorgio? No, insomma, stiamo aspettando da tempo, adesso sembra un'occasione più concreta di altre, bisogna vedere, perché questa pista qua è una pista che fa degli scherzi continui sempre in un modo o nell'altro, tant'è vero che così come non è che conti tantissimo questo distacco così ridotto lì ancora, così non, come dire, un po' presto per dire che andrà in un modo o nell'altro, perché è una pista dove si sbaglia molto facilmente, a cominciare dalla partenza che è una specie di doppio uncino dove tutti gli anni succedono dei disastri, una frenata ritardata dove sbagliare un attimo e se sbagli tocchi dentro qualcuno, quindi insomma bene, insomma stiamo aspettando da mesi ormai che succeda qualcosa di positivo. Sì, è un po' l'ultima chiamata per la stagione questa. Beh, la sì, classifica insomma, allo spazio qualche pensiero ancora lo lascia, vabbè, 100 punti Rosberg, 60 Vettel, sono 40, sono tanti, però abbiamo scoperto ad esempio che Rosberg non è più invincibile come nelle prime 4 gare, abbiamo scoperto che Hamilton è forse ancora il faro di questa stagione ed Hamilton è lì, è più vicino, 22 punti da Vettel. Sì, insomma il problema è che ci sono dei numeri che ancora non, cioè questo distacco di Montreal non è che smentisce ancora, no? I numeri sono abbastanza preoccupanti, così con una visione generale. C'è la Red Bull in grandissima crescita con due ragazzi che sono tosti sulla aggressività da corsa nel momento in cui hanno una macchina appena accettabile e adesso cominciano ad averla. Cioè, bisogna aspettare un attimo, bisogna fare un po' di verifiche. Secondo me non è un mondiale in discussione, cioè non è un mondiale recuperabile. Cioè è un mondiale che finirà alla Mercedes e poi decidano loro tra Rosberg ed Hamilton chi lo deve vincere. Sì, a meno che facciano dei pasticci loro che lo perdano proprio loro, ma devono buttarlo nel cesso proprio più volte, no? Cioè se no non si vede come sia possibile, sono sempre perennemente davanti, stavolta con un margine più ridotto, ma insomma il naso davanti a questi qui non glielo metti mai, salvo qualche circostanza l'ha già fatto la Red Bull due volte, perché la Red Bull ha vinto in Spagna e aveva in mano la corsa a Monte Carlo, ha fatto un pasticcio loro. Insomma, bisogna fare qualcosa un po' di più per rendere concreta una rincorsa, no? Mi sembra che non basti questo dato qua. Lo dico anche, ma non voglio fare il pessimista, lo dico anche per un po' per scaramanzia, aspettiamo un attimo perché... Sì, di parole ne sono state fatte anche troppe alla vigilia di questa stagione anche da parte di Marchionne e dei vertici Ferrari, e forse questa è una delle chiavi di lettura della pressione che c'è stata in questo avvio sulla Ferrari. Abbiamo il traffico, chiedo ancora un minuto di pazienza a Giorgio Teruzzi. Intanto è finito il primo tempo a Nizza, 0-0 tra Polonia e Irlanda del Nord, in questa che è la seconda partita dell'Europeo di questa domenica 12 giugno. Traffico, torniamo. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo Giorgio Teruzzi in collegamento, Marina Presello qui con me, scrive un amico da casa chiedendo se c'è sentore di regolamento di conti tra Hamilton e Rosberg a proposito di prime curve oggi a Montreal. Giorgio? Ma insomma questi due qui non è che... Hanno già dato, eh? Hanno già dato, ci provano, insomma non sono così sciocchi da fare regolamenti di conti, queste cose qui sono cose un po' che ci servono al bar. Provano a vincere e provando a vincere... avendo dei mezzi molto simili, qualche volta ci sta un errore, qualche volta ci sta una collisione, qualche volta ci sta una tensione particolare, perché insomma chi ha quella macchina lì deve vincere, no? Rosberg non può più perdere un'occasione, perché sennò fila diretto nella categoria dei gregari. Ma questa è un po' una gara chiave nel duello tra Hamilton e Rosberg? Non so dire ancora, nel senso che il problema è la testa. Hamilton mi sembra che abbia recuperato un equilibrio, una fasatura connessa al mestiere che deve fare. E quando te l'ha sono problemi un po' per tutti. Rosberg ha un vantaggio che in altri tempi non ha avuto e deve imparare a gestire, forse gli conviene anche gestirlo un pochino, anche perché secondo me non sono, qui è un discorso complesso, ma i piloti sono come tutti gli altri atleti, non sono in forma tutto l'anno. Mi sembra che Rosberg sia in un momento di calo mentre Hamilton di crescita, e bisogna avere anche un po' di pazienza, spero, in questi momenti qua a gestire, insomma. Grazie Giorgio. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Giorgio Teruzzi, ore 20, il via a Montreal del Gran Premio del Canada. Siamo quasi in chiusura, però ci scaviamo il finale per parlare di pallacanestro con Jerry De Rosa, che saluto. Ciao Jerry. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Jerry. Marina Presello qui con noi. Ciao Marina. Parla anche di basket, non solo di calcio. Lo so bene. Mi fate sentire. Ne ho promossa in Serie 2. Mi fate sentire Alessandro Gentile ieri dopo gara 5. Alessandro Gentile. Non siamo certamente la squadra più talentuosa del mondo in attacco, quindi la nostra difesa è la nostra base. C'è anche da fare i complimenti a Reggio Emilia che nel secondo tempo ha alzato il livello di gioco. La pressione si fa sentire da entrambi le parti. Sappiamo quello che ci aspetta, sappiamo quello che dobbiamo fare. Adesso sta a noi andare lì e giocare con la giusta cattiveria e concentrazione. Questo Alessandro Gentile ieri, guardando i 40 minuti di ieri. Del mondo in attacco. Sì, talentuosi del mondo. Guardando i 40 minuti di ieri. Jerry, la serie finale tra Milano e Reggio Emilia è conclusa, nel senso che non c'è partita, però bisogna andare a Reggio Emilia e lì cambiano le cose, almeno gara 3 e gara 4 l'ha dimostrato. Adesso è veramente difficile fare previsioni, perché hai ragione, guardando le partite di Milano dovrebbe essere conclusa già da tempo la serie, però Reggio Emilia ha mille risorse ed è molto brava a infilarsi, diciamo, nelle pieghe, chiamiamole delle paturnie milanesi, perché non viene un altro modo per definirle, però poi Reggio Emilia è molto brava a sfruttarle e a saltarle quando gioca a casa sua. Jerry, ma questo equilibrio emozionale così strano, no? Di Milano, che sembra una donna con le paturnie, perché? È difficile, è secondo me una, non sono riusciti a creare obiettivamente la giusta chimica di squadra. Singolarmente i giocatori sono molto forti, ma secondo me tecnicamente fanno fatica un po' a combinarsi. Lo riescono a fare nel momento in cui sono molto concentrati e nel momento in cui le cose vanno bene, però nel pallacanestro la vera squadra si vede quando le cose vanno male, e nei momenti difficili della partita Milano tende un po' a disunirsi. Però ripeto, ci vuole poi l'avversario che è bravo ad esaltare questi momenti difficili. Reggio Emilia l'ha fatto molto bene in casa, in trasferta l'ha fatto per tempi troppo brevi. Per esempio ieri c'è stato un momento nel secondo tempo in cui Milano è andato un po' in difficoltà, ma sì, però partendo da meno 24 che è arrivato fino a meno 9 e ha avuto la possibilità di riavvicinarsi ancora, ma Milano poi è ripartita. L'elemento fatica è un elemento a questo punto per Reggio Emilia soprattutto? Non c'è dubbio, anche perché la situazione fisica è critica. Radori sta facendo i miracoli a restare in piedi, ma gioca 15-16 minuti e li gioca molto bene. Veremenko ha male al piede, Laurinovic e Cauchena hanno 75 anni in due e stanno facendo veramente i miracoli. Escono sempre con Laurinovic con la lingua di fuori, Cauchena no, perché è veramente un Ironman. Però è chiaro che se c'è una squadra che ha da perdere per questo ritmo frenetico dei playoff sulle 7 partite, è sicuramente Reggio. Ti posso chiedere un'altra cosa su Reggio? A me è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto e forse ha giocato sempre in categorie più basse, De Nicolao. Io l'ho trovato in questi playoff comunque uno che ha fatto nel suo piccolo, possiamo dire, la differenza. Indubbiamente ha fatto una grande stagione ed è il playmaker italiano più forte del campionato, secondo me non ci sono dubbi, e credo che qualche dubbio a Messina per il preolimpico su lui o Cinciarini sia venuto. È chiaro che De Nicolao ha pochissime esperienze. Esatto. Internazionale, e al preolimpico giocheremo praticamente solo delle finali e quindi magari non è il momento di lanciarlo. Rischiarlo. Sì, anche se il campionato ci ha fatto vedere un giocatore di alto livello, non c'è dubbio. Grazie Jerry. Grande Jerry. Grazie a voi. Grazie a Geri De Rosa da Sky per fare il punto su questa serie finale tra Milano e Reggio Emilia, che domani, tra l'altro in contemporanea con Italia-Belgio, meravigliosa scelta questa della Lega Basket, vivrà gara 6 che potrebbe assegnare lo scudetto a Milano. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggi e Valeria Bernardi che si sono alternati in regia. Un ringraziamento anche a Marina Presello che è venuta qui a smentire le leggende parolangolo metropolitane. No, io volevo fare un'ultima domanda a Marina Presello. Sì. Intanto volano sedi a Lille. Una domanda tecnica: quale prodotto usi per pulire legno antico senza rovinare il tavolo? Dopo due ore. Dopo ne parliamo due adesso sinisa davanti alla torta della nonna. Dai, grazie al nostro Andro Mercu. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14 anche con Pierluigi Pardo. Tutti convocati il weekend invece torna domenica alle 17. Ciao. È finita! È finita!